Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Penso che sia la prima volta che iniziamo in anticipo di 10 secondi. È vero, infatti piove per quello. Buona serata a tutti coloro che stanno ascoltando Blue Radio Veneto in questo istante. Oggi è mercoledì 15 maggio 2013, appuntamento con Rock Wave Live del mercoledì, il nostro appuntamento clou per quanto riguarda i live nel corso della settimana di Blue Radio Veneto. Questa sera, caro Maurizio, con i Never Trust, se non sbaglio. Esattamente, i Never Trust che ci arrivano dalla Lombardia, da Seveso, o quella banda è là, vero Elisa? Esatto. Buonasera Elisa. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera anche la band, come state? Ciao, bene bene. Avete fatto un buon viaggio? Benissimo, bellissimo. Viaggio acquoso, un po' di acqua, vero? Troppa. Mi sa che se la beccano anche al ritorno, perché intanto viene avanti. Se ci segue come la nuvola di fantozzi. Esatto, esattamente. Bene, i Never Trust è un gruppo giovane, una band giovane, che viene dalla Lombardia, da Seveso per l'esattezza, e fa rock. E quando uno dice fa rock, già si apre un mondo, chiaramente. Fa rock, da dove è nata l'idea, Elisa? Tu ti chiami Massimo. Flavio, dove è nata l'idea di... Manca il batterista, mi pare, vero? Eh sì. Che è rimasto a casa. Eh sì, voleva venire ma non è riuscito col lavoro. Lo salutiamo. Ciao Gianni. Ciao Gianni. L'idea, dove è nata dei Never Trust? L'embrione. Guarda, l'embrione è nato ormai quanti anni fa? Nel 2006, tipo, più o meno. Abbiamo iniziato con le cover, come al solito. Ci piacevano le classiche, quindi sai. Quale che... classiche? Quale cover? Lui citava i Led Zeppelin prima, microfono anche spento. Sì, loro sono tutti zeppeliani partiti, convinti. Zeppeliani convinti, che ci sta, ci sta, sì. Poi sai, ci inserisci sempre qualche canzone con voce femminile, perché appunto io sì, chiaramente devi avere un ruolo. Quindi vabbè, parti da lì, quindi tutte le tue influenze si mischiano, al che un certo giorno ci siamo trovati e abbiamo detto beh, ma proviamo a buttare giù qualcosa di nostro, e da lì nasce sempre un po' tutto. Quindi fa tantissimo l'influenza loro dei Led Zeppelin, queste cose, quindi c'è ovviamente nel comporre. Poi tenti sempre di distinguerti, ecco, nel tuo. Nel 2007 qualcuno ha scritto, o avete scritto voi nella biografia, con qualche pezzo in tasca avete fatto nel 2007 un premio, un concorso, è così? Sì, perché nel 2007, anzi in realtà nel 2008 abbiamo fatto uscire il nostro, diciamo, il primo demo, no? Il primo CD che aveva 7 tracce, se non sbaglio. Quindi un demo allargato. Esatto, sì, con un remix in più, e ho scritto con qualche pezzo in tasca, perché in realtà poi di quelli non tutti li portavano dal vivo, poi sei proprio i primi, cioè, quindi neanche fai la scrematura, cioè con questo abbiamo, con quello nuovo abbiamo avuto modo e tempo, e quindi con qualche pezzo in tasca abbiamo vinto un concorso, sì, proprio band emergenti. Intanto vi siete mostrati. Sì, sì, no, poi è stato proprio carino quello, poi sai, comunque abbiamo vinto proprio il titolo più carino che c'era in quel concorso, perché era il brano più originale, quindi figurati per noi, è stata proprio una super vittoria. Quindi, bene. Bene, quindi avete cominciato così, poi siete arrivati, mi pare, nel 2009 con un altro pezzo, And You, punto di domanda. Esatto, sì. Che avete fatto una compilation, Fatti in Brianza. Sì, c'è questa etichetta di Avio Records. Infatti saluto tutti questi ragazzi, hanno anche un locale in Brianza che si chiama Tamburin. Loro organizzano sempre cose belle. Loro hanno fatto questa compilation, credo, di 15 band, tra cui c'eravamo anche noi. Hanno scelto questo pezzo nostro, e attualmente è scaricabile sul loro sito. Quindi anche quella è stata una cosa carina, perché poi tutto prodotto da loro, quindi cioè tutto spesato, cioè hanno pagato loro, quindi è stata una buona visibilità, diciamo. Sergio, hanno fatto la gavetta, come si dice, come è giusto anche. Come è giusto, eh sì. Siamo ancora in gavetta. Siete ancora esatto. In gavetta. Speriamo che finisca presto e che possiate decollare. Bene, quindi siete arrivati verso il 2010-2011 alla Michelle Rock Festival di Torino, un festival importante. Ah sì, sì, quello, anche quella è stata una tappa bella, è vero, come bella quella biografia, c'è proprio scritto tutto. C'è scritto tutto. Sì, siamo arrivati lì e abbiamo suonato, no, in realtà erano tutte band emergenti, se non erro, sì. E quindi comunque il nostro livello, quindi non è che c'era il nome, però un sacco di gente, c'è un'affluenza bella. E la gente ha risposto bene, e quindi poi sai, quando vai in trasferta tipo anche oggi è sempre bello, perché comunque tenti sempre di uscire da quello che è il tuo circolo di persone che viene sempre a vederti. Esatto, ecco, esatto. Quindi buono, molto è buono, interessante. Poi 150 live show, parlavamo, cari ascoltatori, a microfoni spenti, 150 live vuol dire suonare molto in giro e farsi vedere, mostrarsi, che non è semplice coi tempi che corrono. Sì, conta che infatti adesso forse iniziamo magari a, tra virgolette, selezionare lì in quelle 150. 40 erano delle topaie, si può dire topaie? Non importa, non importa, sì, si può però dire. Però no, no, nel senso. È giusto, cioè, hanno cominciato anche i Beatles nelle topaie. Ecco. No, no, ma infatti noi abbiamo, il nostro motto era sempre suonare, perché comunque così porti dal vivo la tua musica, ti fai vedere, la prova live, quindi adrenalina, cose, insomma, tutto mischiato, e quindi siamo contenti, dai. Bene, cosa dici Sergio, cominciamo a far sentire un pezzo? Di solito iniziamo da quello, il primo da disco. Esattamente, sì. Traccia numero uno. Fade Away. Ok, la sentiamo subito. Insomma, ti par poco? No, mi par proprio bene, praticamente. Sì, avete spaccato. Sì, l'inizio dell'album. Lei cioè, sembra tanto tranquilla. Sembra tranquilla qua, ma è una voce incredibile. Hai spaccato veramente sul palco. È troppo buoni. Ti ricordi quel gruppo di Reggio Emilia? Aveva fatto faceva musica simile, sì, non mi ricordo sì, più. Sì, non mi ricordo, però visivamente vedo. Sì, che fuori onda anche lì la cantante era tranquilla, tranquilla, poi ci dava dentro. Si scatenava. Così. Sì, sì, se sì, vi sì. Ricordate poi il nome, fatemelo sapere. Dopo vediamo. Sì, grazie. Sì, sì, sì. Sì, giustamente abbiamo identificato il discorso di spaccare, cioè di muoversi. Questo pezzo iniziale apre il disco in una certa maniera. Mm-hmm. Cioè la scaletta l'avete fatta voi, no? Sì. Avete scelto questo pezzo iniziale, anche se però Massimo diceva che forse il pezzo più potente è la traccia numero 7, vero Massimo? Sì, che non è in scaletta però. Eh? Che non abbiamo che non in scaletta, ma no, possiamo sempre. Ma forse lo suoneremo. Ma sicuramente. La facciamo acustica. La fanno acustica. Sì. Dimmi Massimo, perché avete scelto questo pezzo che spacca? Perché la gente quando vi vede con i 150 concerti che avete fatto, soprattutto nell'ultima parte col disco nuovo, ha un certo senso, un certo peso. Ma guarda, sta parlando il chitarrista, l'endixiano della compagnia. Ma sinceramente l'abbiamo scelto, cioè oddio, ho detto io che il disco, cioè che questo pezzo spaccava ed andava messo nella posizione numero 7, perché ho un ricordo di tutti i dischi che ho sempre apprezzato di più. E ricordavo che la numero 7 era sempre quella che aveva quel qualcosa in più, quella marcia in più, non so perché, forse quindi un po' dopo la metà. Sì, un po' dopo la metà, era forse sarà stata la mia condizione psicologica che mi spingeva a pensare questo, però mi collegavo sempre al fatto che comunque la numero 7 era sempre la canzone un po' particolare di qualsiasi disco che ascoltavo, comunque di quelli che ho sempre portato nel cuore, no? Allora dicevo, cavoli. Stasera però abbiamo sentito la numero 1. Sì. Infatti abbiamo detto, cavoli, secondo noi titolo dell'album, canzone che ha dato il titolo all'album, che secondo noi è una signora canzone molto energica, con un bel testo, insomma, profondo e tutta una serie di cose, deve essere la numero 7, allora abbiamo detto. Perfetto. E numero 7 sia. Dunque stasera chiaramente sono venuti in acustica, Massimo è la chitarra acustica e dunque Flavio, al basso praticamente, acustico. Basso acustico. Basso acustico. Elisa canta, è la vocalist. Vocalist. Il basso, che importanza ha nella vostra band? Notevolissima. Il basso è la... Non c'è il batterista stasera. Tu lo sostituisci idealmente con il basso stasera. Ma mi piacerebbe sostituire il Gianni, che salutiamo tanto. Poi vabbè, il basso... Sono dell'idea che serva a far la base. Speriamo di farcela. La ritmica è fondamentale, è una band che fa rock. Il basso è... E proprio il mattone per costruire la casa. Dico sempre la fondamenta della casa. Poi speriamo che la casa stia in piedi, però ci facciamo il massimo. C'è Elisa che tira su dopo. Ci pensa lei. Ci sono io. Allora, che cosa suoniamo adesso per cominciare la danza? Io farei, se anche per voi va bene, farei quella che appunto anche nel disco abbiamo deciso di inserire in acustico. In realtà c'è sia la versione in elettrico che in acustico, perché ci piaceva. È l'ultimo pezzo nel disco, praticamente. Esatto, ed è Games with Tide. Perfetto, la sentiamo e poi ne parliamo. Against the tide, tell me what is right or wrong for me. Tell me what is right or wrong for me. Blu Radio Veneto. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, abbiamo ascoltato questa Against the Tide Acoustic. E un critico ha detto una cosa molto bella, adesso ne parliamo con Elise e anche con Flavio e con Massimo. Erano i Villains comunque. Il gruppo. Ah, esatto, hai ragione. Hai trovato adesso. Critico ha scritto: Questo pezzo rappresenta una vera e propria sfida per le potenti corde vocali di Elisa, che cerca di mantenersi, di non esplodere. È così, Elisa? Sì. Allora, diciamo che col genere che facciamo, allora, che io adoro il rock and roll, cioè si capirà, però è difficilissimo, cioè proprio a livello di pressioni, a parte che canto in un'altra lingua, a parte l'intonazione, cioè ci sono tante basi che secondo me deve avere un cantante. Io una lunghissima strada avanti, per carità, quindi parlo con umiltà, però tante cose già devi valutare, e una cosa fondamentale è che se vuoi portare un prodotto di questo tipo in acustico non puoi andare lì sbraitare come un pazzo, ed è difficile, le pressioni, le cose, difficilissimo, giuro che anch'io, e poi mi diverto, perché è vero, come ha detto lui, anzi sono contenta che lo dica, perché anche per me stessa è una sfida, infatti anche decidiamo di fare gli acustici live e ci piace, però è difficile, bello. Però. Bello, quindi difficile e bello. È difficile e bello, hai detto una cosa bellissima. Una cosa interessante, che mentre il pezzo andava, sia Flavio e sia Massimo cercavano di fare un tappeto sonoro, ma abbastanza ritmato, abbastanza sostenuto con il basso tuo soprattutto, e lui ti seguiva poi, praticamente faceva una specie di contorno, e tu con il basso pompavi. Basso acustico, assolutamente, però se è elettrico era meglio, secondo me. Cosa dici? Ma l'acustico chiaramente l'ho preso apposta, sono già legatissimo per comunque il progetto acustico lo portiamo avanti costantemente. Parallelamente a quello elettrico? Parallelamente. Okay. Viaggiano su due binari separati ma che si incrociano sempre, perché vabbè, il cuore è sempre elettrico, almeno per me, poi non so. Sì, cosa dici Massimo? Ovvio. Elettrico il tuo cuore? Sì. Ah, io sì, ho due Gibson, una acustica e una elettrica, ma vedi, adoro attaccare il jack all'amplificatore. Però hai due? Due Gibson. Vedi. Quello, volevo che arrivasse a quello. Due Gibson. Chiaramente sì, abbiamo capito. Però abbiamo notato, Sergio lo sa, una band che fa musica sostenuta come la vostra, esiste sempre nella traccia il cuore acustico. Ci si mette dentro. Ricordo, non è il vostro caso, non so Sergio se ti viene in mente, gli Scorpion, duri, ma avevano sempre quei pezzi acustici che li facevano avanzare nelle classifiche di tutto il mondo. La melodia, esatto. Quando ci stava, ci stava. Ci stava. Mm. La melodia viene fuori indipendentemente, siamo italiani, nonostante tutto. Rocchettari finché vogliamo, però la melodia, questo pezzo era melodioso. Mm-hmm. Assolutamente melodioso. Lo so in Raul Casadei we trust. Vabbè, citando. Ma anche no, grazie. Anche no. In Albano. Albano, la melodia la porta in Bulgaria, la porta in Cina, la porta dappertutto. Per carità, non facciamo nessun commento con Albano. No. Non facciamo una battuta tutto lì, niente sì, di. Certo. Carità. No, grande siccome, Albano, ti stimiamo. No, siccome prima abbiamo parlato a microfono spento di un altro melodico. Si chiama Gigi D'Alessio, quindi è un melodico. Vogliamo scendere ancora più in basso? No, cioè, lasciamo perdere. Mamma mia. Mi sento bene. No, ma miele. No, basta. No, per carità. No, adesso stiamo scherzando, però la melodia è importante, è fondamentale. Mm-mm. Ecco, il pezzo, l'idea di questo pezzo, scritto in questa maniera, com'è nata? Da voi tre o anche dal batterista che adesso non c'è? Ci siete da casa? Allora, no, lascio parlare te se ti va, Massimo. Sulla scrittura dei pezzi. Ma tu scrivi i testi dei pezzi, uh-huh. e loro tre, uh-huh. mettono la musica, è così? Sì. Massimo mette la musica. Diciamo che parte tutto sempre dai suoi riff, tranne capito. Qualcosina che però diciamo che lui un po' ha la mente della band. Quindi okay. Se vuoi dire qualcosa. Massimo Puggio, d'origine veneta, dobbiamo dirlo. Per forza, esatto. Padova proprio. Ecco, d'origine padovana. Sono padovano. Benissimo. Dimmi ora, Massimo. Ma no, niente, in realtà questo pezzo poi è, in principio era nato proprio in acustico. Poi dopo è stato sviluppato da noi in elettrico. In elettrico. E quindi l'abbiamo sempre suonato in elettrico, l'abbiamo inciso nel disco in elettrico, fino a che è nato questo progetto parallelo di portare i nostri pezzi comunque in acustico in giro, insomma nei locali e negli eventi in cui avevamo la possibilità di suonare. E poi una sera, niente, mi sono messo lì, mi sono registrato tutto il pezzo solo io con la chitarra, ho cominciato ad aggiungerci gli archi, il violino e questo e quell'altro, e ho detto, cavoli, prova a cantarci sopra, magari non in maniera aggressiva, in maniera un po' più melodica, e da lì abbiamo buttato giù una bozza, e nel momento che registravamo il disco, il nostro produttore fa, cavoli, questo pezzo qua comunque funziona. Cioè funziona. Ecco, il nostro produttore, chi è il vostro produttore? Il nostro produttore è un ragazzo. Sì, magari ci sta sentendo adesso dal web. Ci sta ascoltando dall'America. Sì. Apple, sì. Certo. Ciao Lino. Ciao Lino. È un nostro caro amico che attualmente è una bella storia, me l'hai raccontata prima, possiamo anche citare. Lui è venuto qua in Italia, eravamo ex colleghi di lavoro, lavoravamo in fabbrica insieme, fino a che un giorno lui mi dice, oltretutto parentesi, lui è un grande batterista, allievo di Walter Calloni, quindi, insomma non, un musicista abbastanza insomma di esperienza, coetanei, mi dice, cavoli Massi, mi sono stufato di stare qua in Italia, voglio andare negli Stati Uniti, voglio imparare a registrare, voglio imparare a suonare, voglio fare un'esperienza, insomma nel giro di un mese è partito, pronti via, ed è andato a Cleveland, e da lì ha studiato per fare tecnico del suono, tecnico da studio, e casualmente quest'estate è piombato qui in Italia per trovare i suoi parenti, sua madre, così, e purtroppo per nostra fortuna, per sua sfortuna, è inciampato nelle leggi italiane un po' troppo lunghe per i permessi, insomma queste cose. Morale della favola, si è soffermato un anno. In quest'anno noi avevamo intenzione di fare il disco e lui fa, ragazzi, io sono in grado di farlo, se volete lo facciamo, e da lì abbiamo incominciato e da lì è nato il disco. Sì, che Dimmi. Che poi no, se posso interromperti, abbiamo deciso di tralasciare un po' le cose negative stasera, perché poi abbiamo rifatto in realtà il disco con lui, perché abbiamo interrotto in maniera non tanto un carino il rapporto con un'etichetta con cui non ci eravamo trovati bene, lui è capitato fagiolo, sei proprio nella vita quando ti capita e ci ha portato a questo, però vabbè, non vogliamo dire nulla di... No. Non ci siamo trovati bene per quella strada, abbiamo preso un'altra, quindi... E contentissimi di aver preso questa strada in conclusione. Sì, esatto. Bene, è stato un percorso, cioè anche questo è un'esperienza, chiaramente. Sì, sì, molto. Sì. Quindi l'avete registrato praticamente in casa? Sì, si può dire. Bello, vero Sergio, registrare un disco in casa, come una volta. Come una volta, come esatto. Una volta. Ma si sente bene, è un bel suono. Sì, molto, molto. Ci siamo attrezzati, adesso ormai, vabbè, come tutti sapranno, l'home recording ha preso, insomma, una certa importanza. Relativamente facile, cioè più di una volta forse. Più di una volta, sì. Arrangiarsi. Ricordo che, insomma, già 15 anni fa, se volevi registrarti qualcosa, si andava in sala prove col nastro, la cassettina, due microfoni e veniva fuori una roba che, insomma... E adesso, cavoli, con l'home recording si possono fare delle cose veramente incredibili, se si è capaci. Questo ragazzo fortunatamente è capace e alla fine con due microfoni buoni, una buona scheda audio, un buon software e un computer, tempo e pazienza. Pazienza, soprattutto quella. Pazienza e... Ma di te che... Penso che comunque l'orecchio ci voglia sempre. Certo. Sì, quindi no, se no, lui poi, ne ha. Sì. Secondo me la base di queste cose sono due. Uno, le idee, che sono la base di tutto. E poi, vabbè, nel contesto della registrazione, le persone competenti. Perché in giro ci sono tante persone che pensano di essere competenti e non lo sono. E rubano soldi a band emergenti con l'illusione di ti faccio il disco della vita, invece il loro scopo è solo mettergli le mani in tasca. Ma dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori: la band si è pagata tutte le spese per fare il disco, sì, non è stato mica regalato nulla. Sì, sì, sì. E è quindi, stato un investimento. Con un nostro investimento che sta ritornando con molta fatica, però sta con molta fatica. Non sapremo neanche se tornerà, ma non ci importa. Non ecco, è... Esattamente. Flavio non dice niente, è soddisfatto. Soddisfatto. Sì. Io sono entrato a disco fatto, me lo porto come se l'avessi fatto io, come se avessi registrato anch'io. Però vabbè, sono arrivato con la pappa già fatta, adesso sto cercando di dare il massimo per quelli che verranno. Non è mica una cosa semplice fare un disco. Ci vuole, però vedere il disco, essere pubblicato con un disco è una cosa meravigliosa in ogni caso. Lo so che è un grande dispendio economico, però è cioè, l'avere un disco, fare un disco, essere presente con un disco fuori è un orgoglio enorme. Enorme. Esattamente. Anche perché poi, scusami, perché poi, prego, sai, dopo tutti questi anni abbiamo deciso, dai, facciamo le cose fatte bene, cioè se le facciamo, le facciamo bene. Quindi già abbiamo preso una decisione importante, quindi cioè abbiamo dato tanti soldi a quest'altra persona che poi non ci aveva convinto, ma tanti. Quindi, ma al di là di soldi, tempo, tutto, cioè abbiamo perso un sacco di tempo, guarda se ci penso, E quindi ributtati, riparti da capo. In più anche lì un altro bassista se n'era andato, quindi sai, energie più che altro, testa, tutto. E invece meno male, cioè quando davvero, io quando penso a questo disco penso al fatto che davvero se poi ti impegni arrivano le cose, perché arrivi, te lo sei meritato. Cioè abbiamo fatto di tutto per farlo bene e alla fine è venuto bene, secondo me. Poi bene. Vedremo. Cosa dici? Sentiamo un altro pezzo live, fate un altro pezzo dal vivo, dai. Okay. Cosa volete fare? Quello che volete. Facciamo More Than This. Hard to please isn't what you really think. This is it, but then man, I've got what it is. Lay your cards, the face am up so I can see. What is this, from lovers down to enemies? And now I've lost my more I reach, the more you run. What is this? An empty pollen without a gun. And now I've lost my roar. And everything is on. I've lost my mind. So I want you one more. Cause I want more than this. I want you one more. And no, no, it's not my fault. This doesn't satisfy me. It's not only my fault. It's not only my fault. It's not only my fault. It's not only my fault. It's not only my fault. Però l'allarme era a tempo. Eh sì, cioè, c'è qualcuno che ha fatto scattare l'allarme. Voi non abbiate paura, è solo l'allarme antincendio. Ecco, esattamente. Ok. Niente di preoccupante. Assolutamente no. Ma è meglio che io vada a vedere. Sì, esattamente, così parliamo un secondo. Chiacchierate amabilmente. Ecco, è finito. E adesso esplode tutto. Beh, è stato bello. Esatto. Dobbiamo sottolineare una cosa. Questo è un pezzo molto potente, invece... Tu l'hai diventato un pezzo acustico e hai avuto difficoltà, sei stata molto brava, perché un pezzo acustico potente, ridurre un pezzo acustico non è semplice, è difficile. Eh sì, come ti dicevo prima, beh, poi io non lo so, io poi sai, c'è sempre il fatto che pensi alla tecnica, a cose, però non so, io fortunatamente poi dopo quando inizio a cantare non ci penso, cioè mi vengono in automatico, cioè penso più a quello che avevo in mente quando ho scritto questa cosa e cosa volevo dire, perché certo. Alla fine anche facendo musica devi essere un bravissimo comunicatore secondo me, quindi già scrivi in un'altra lingua, quindi bisogna anche stare attenti alla dizione e le cose, quindi tento di fare le cose al meglio, di trasmettere, ecco, massimo. Hai sicuramente trasmesso, almeno per me. Anche gli ascoltatori sicuramente. Quindi versione acustica di un pezzo molto potente, critica ha scritto i LED a tutto volume, erano qua i LED, sì. Molto, proprio al massimo della possibilità. E l'idea di fare questo pezzo, tu prima Massimo aveva citato qualcosina, però adesso puoi ampliare il discorso appena accennato prima della title track. Ah, ok, sì. Visto che abbiamo parlato della title. Questa non è la title. Scusa, non della title track, quel pezzo che abbiamo detto adesso. More Than This. More Than This. More Than This è stato un pezzo che... Anche questo è nato in acustico, leggermente differente da come poi è stato messo sul disco. E sostanzialmente, nel senso, quelle cose che nascono un po' in maniera un po' strana, perché mi sono presentato in sala prova e ho detto, cioè c'era il Morni che mi ha confuso, dimmi per quello. Dimmi. Ho detto ciao, ho tirato giù un paio di cose, ma all'inizio erano ma tecnicamente Da dove parte? Da un riff tuo? Sì, e lì sì, ci mette, ci sì, mette sì, il testo? Tecnicamente parte un riff mio, poi vado lì. Flavio, cosa fa? Flavio è venuto dopo. Flavio è arrivato dopo, prima c'era Alessandro con noi che salutiamo. Arrivo io, tiro giù un'idea, arrivo in sala prove, incominciamo a bisticciare io il batterista, no? Mi pare giusto così, che sia così. Tu fai così, no, di qui, no, di lì, no, funziona così, così gira. Allora litighiamo un paio d'ore, poi alla fine comincia a prendere piede qualcosa. E poi da lì, in realtà era partito che era un po' più tranquillo il pezzo. Poi sul disco è abbastanza strong come pezzo. Insomma, è un'idea che si è tramutata nel giro di due ore di prova, perché io ho portato una cosa che era molto melodica, soft, alla fine si è tramutata. L'ha rivoltato. L'abbiamo rivoltata tutti insieme. Ma è anche il testo che la fa rivoltare oppure no? Ma il testo... Ah, tu dici la melodia? No. La melodia ho capito che poi era abbastanza quieta, relativamente quieta, poi avete cambiato tutto quanto. Il testo dà un certo senso. Ma proprio certo... le parole, il senso di quello che vogliamo dire. Certo. Ma in realtà il senso, cioè quello che poi diciamo è scollegato in realtà. Ah, ho capito. Dal discorso musicale. Esatto, anche una morning light. Cioè ci sono anche delle canzoni che riguardano l'amore, se vuoi, o comunque cose anche dette in maniera violenta. Quindi non è che sempre per forza, se parliamo di una cosa po' soft, ecco. La musica è soft. Sì, dal vivo come lo fate? Elettrico al 100%? Sì, tutto hendrixiano convinto come sei? No, io non sono un hendrixiano convinto, lo stimo, ma io sono... Cosa sei allora? Io sono per Jimmy Page. Ah, sì, Led Zeppelin Docet, chiaramente. Beh, anche se lui ha sempre detto di avere una stima incondizionata per Jimmy infinita per Hendrix, ma chi non può averla? Tutti. Qualsiasi chitarrista non può non... Non può prescindere da lui. Al di là di questo, però. Quindi dal vivo è. Cioè, date forza, potenza. Sì, dal vivo quando prepariamo gli show, che in elettrico è il primo pezzo della scaletta, parte proprio con un intro che è stato proprio tagliato dal disco. Perché direttamente. È Flavio che fa l'intro? Sì, lo fai te. Fa il disco. Lo cantate, quando fate dal vivo, chiaramente. L'intro come lo ma l'intro parte proprio la base presa dal disco. Alla base direttamente. Sì, non lo fate, secondi, ho capito. 30 secondi e poi attacchiamo. E poi attaccate voi. Vi date proprio in quel modo. Tra l'altro, l'intro è di questa canzone che abbiamo fatto prima, More Than This. Cioè arriviamo fino a tipo la strofa, cioè che io faccio lo special e appena entriamo nel ritornello, no, ti assicuro, secondo me ha un certo, una buona resa. Una live, buona resa, sì, bene, sì. Bene. Benissimo. Volevo sapere, la gente vi vede, vi sente, quando è sotto il palco fate muovere la gente o no? Appunto. Venerdì abbiamo fatto una serata, secondo noi, molto, molto bella con altri due gruppi molto, che avete suonato assieme, molto strong, sì. Honky Tonky di Seregno, che è un locale. Un locale veramente bello, personale dal vivo, magari ce ne fossero ancora altri sempre di più, un bel palco, un impianto eccezionale, cioè abbiamo potuto veramente lasciarci andare e insomma avevamo un bel pubblico davanti, a un certo punto su certi pezzi hanno incominciato a saltare, a incitare. Una cosa che mi interessa sapere è questa: quando fate i pezzi live, l'ho chiesto in altre band e loro mi hanno risposto, vediamo se voi mi date la stessa risposta. Quando ho suonato un pezzo dal vivo, chiaramente il pezzo dal vivo si dilata, si allarga, lo dilatate talmente tanto da escluderlo, da farlo dimenticare il pezzo originale com'è, o state sempre nei dettami del pezzo? Beh, no, più o meno... Live non è estremista fino a questo? No, non è estremista fino a questo, no. Questo. Beh, più che altro adesso è perché siamo appena freschi di disco e ci va proprio di dire le cose come le abbiamo scritte e pensate. Ecco, però dopo può darsi. Sì, conta che già qualcosa facciamo, c'è tipo anche in Worthless, che è la seconda traccia del disco, abbiamo inserito un interlude in mezzo in cui proprio io abbiamo raccolto dei pensieri, allora vabbè, parlo io perché faccio da portavoce di questi ragazzi. Che parlano quindi, poco. Sembra che parlano poco. Ah, sembrano. Sembra. Quindi vabbè, anche lì, insomma, l'unico pezzo in cui faccio proprio un parlato, e abbiamo deciso di inserirlo un po' per variare, però gli altri più o meno rimangono fedeli alla linea del disco. Beh, giusto, il disco è uscito da poco, quindi sì, è giusto che sia così. Bene, Sergio, cosa dici? Un altro pezzo da scaletta? La traccia numero 2. Sì, ok. Worthless, giusto? Esatto. Esattamente. Eccola qua. Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. È belli tosti i nostri amici, direi proprio di sì. Mi è venuto in mente questa domanda, ma ti riescono a seguirti mentre canti? Cioè, ti trattieni oppure no? Non so, sì, com'è il discorso? Sì. No, sono proprio bravi, anzi. Perché bravi. Di solito in una band il cantante, la vocalist in questo caso, è sempre al centro e la musica gira intorno. E così anche qua, però qualche volta la musica cerca anche di coprire la cantante e viceversa, c'è uno scambio. Si conta che cioè sì, è vero, sai, uno dice, sei, perché ridi? Perché è il modo è mio. Sai, di solito uno dice, ovviamente i musicisti devono, cioè, accompagnare, seguire la vocalist, però io mi sento proprio, cioè, una parte, cioè un connubio totale, sono con sì, loro. Sì, con loro un sì. Tutt'uno, musica, sì. E voce, giustamente. Poi guarda, li conosco da una vita, cioè il chitarrista e il batterista li conosco da una vita, cioè sono proprio i primi miei musicisti. Flavio è appena arrivato, ma è come se lo conoscessi da una vita, per l'alchimia che si è. Quindi anche quando siamo in prove, magari, cioè, anche l'altro giorno ad esempio avevo il suo ampli del basso, per dire, sembra una cosa da niente. Cosa avevi? Scusami. Avevo, non sentivo, non avevamo gli ascolti buoni, giusti in prova, no? Allora lui l'ha spostato subito, cioè ci abbiamo una bella Vi capite? Unione. Esatto, sì, ci insomma, correggiamo a vicenda, queste robe qua. E poi non è che perché sono la cantante mi sento, cioè sì, ogni tanto faccio, sai, quegli spari da donna, un po' sclerata. Ma infatti, loro lo sanno, secondo me, quindi... da Raining Blood. Per quanto ho visto, per quanto ho visto qui nei live, qui soprattutto del mercoledì, secondo me le cantanti donne sono quelle più... più toste, secondo me, no Maurizio? Decisamente è vero. Sì, sì, i cantanti uomini si trattengono, le donne non si trattengono mica. Bravo! Assolutamente. Sì, è vero, è vero. Si sfogano di più quando devono cantare. Mamma mia. Sono scatenate, vero? Ma senso, sempre nel senso positivo. No, sì, certo. Ma sono scatenate, veramente. Non vi trattenete per niente. Vi buttate proprio. Un palco, questo è un piccolo palco, un microfono davanti e la band che vi segue e via. Eh sì. Così. Femmine. L'origine veneta si sente. Femmine. Benissimo. 22:45 e qualche secondo. Visto che hai gestito il palco dal disco, adesso lo gestisci un'altra volta qua, cosa ci fai sentire dal vivo un'altra volta adesso? Lo so che ci sto scambiando la scaletta, ma no, volutamente. No. Hai ragione, facciamo... Perché stai scaldando l'ambiente, qua è caldo, ma è caldo ancora di più quando canti. Facciamo Heartbreak Warning. Benissimo. No one around me. I feel I walk too far. Need to realize and ask myself how or if I could be fine. Stumble, crumble, so confused. Afraid to suffer, be refused. Darling, darling, can't you see? It's a heartbreak warning flashing right at me. Ooh, my heart is burning red. It seems so quiet. It's breaking dawn, and nothing out my doubts makes me feel alive and brings me fear. Will you break my heart? Stumble, crumble, so confused. Afraid to suffer, be refused. Darling, darling, can't you see? It's a heartbreak warning flashing right at me. So Questa era una ballata acustica nel disco e è diventata una ballata acustica anche qua. Non so se avrai notato, Sergio, la sofferenza in senso positivo di Elisa, che ha gli occhi chiusi, però dà uno sforzo notevolissimo. Si cala nella parte al 100%. E poi è seguita chiaramente da Massimo e da Flavio. Poi Flavio ha fatto un giro con il basso, ripetuto, ipnotico quasi, molto interessante. Vero, sì. Me lo rifai un'altra volta quel giro che facevi? Ecco, lo ripetevi ipnoticamente una alla volta, proprio entravi dentro e poi Massimo ti seguiva con i suoi giri chitarristici. E io l'ho sentito così. È sempre bello sentire, sì, Massimo ti seguiva, mi sento importante. Allora Massimo, allora Flavio seguiva Massimo. No. Vabbè. In realtà in questo pezzo lui fa tanto con... Sì, faceva con il basso, che dava un certo peso, che il pezzo era acustico. Giustamente un critico ha scritto un pezzo bellissimo, io sono d'accordo, era molto bello. Che traccia è? La 6. La 6. Vedi che è proprio al centro dell'universo, come se parlava prima degli Scorpio. Può essere prima della 7, quindi vuol dire... esatto, esattamente. Le tracce sono... c'è poco da fare. La 6, la scaletta, non è una cosa buttata così, è fondamentale. Perché le tracce hanno un certo senso, un certo peso e un certo seguito nell'andamento del pezzo, anche musicale, soprattutto musica. Io la penso così. Ah, verissimo. Infatti, quando il giorno che... no, prima di quando abbiamo avuto il master, adesso non mi ricordo, sì, insomma, quando avevamo deciso la tracklist. La tracklist famosa. Ci siamo messi lì. Ah, allora, ok, qual è il pezzo che, come hai detto tu, magari spacca e lo mette all'inizio? Magari lo facciamo seguire da, ad esempio, quella che abbiamo mandato prima. Sì. Quindi da una ancora strong che ti tiene su, perché così ci facciamo capire e facciamo capire la nostra identità. Poi passi a una che era un po' più ballata, cioè abbiamo tentato di studiarle bene, poi a noi siamo soddisfatti di come l'abbiamo fatta, poi sai, sono gli ascoltatori, no, anche quelli che danno il verdetto, però secondo me anche questa alla 6, alla posizione 6 ci stava. Decisamente. Sì, perché sostanzialmente poi dopo abbiamo fatto un lavoro proprio di mettiamoci qui, ascoltiamo la fine di questa e l'inizio di questa e vediamo come stanno. Cioè, nel senso, dopo un ascolto di una di Worthless, dopo cosa vorresti sentire? Ne hai già sentite due strong, ne vuoi sentire una che insomma ti dà un'altra energia, un'altra, ti calma un po'. Sì, ti rilassa momentaneamente. È stata tutta una cosa non studiata, perché studiata è un po' brutta come parola, però comunque abbiamo tentato di impegnarci sulla scelta della tracklist per non renderla una cosa noiosa, ovvia. Cosa ovvia. Cioè, a me è capitato di sicuro anche a te, Maurizio, di ascoltare un disco bello, veramente bello, che però dici... nell'ordine in cui sono le canzoni non le apprezzi, non è che non le apprezzi, le apprezzi, però cioè, ti crea quella sorta di noia che invece non ti danno la scossa che un non ti danno la scossa, invece se poi presi in singolo o rimischiati ha un altro effetto. Esattamente. Proprio tu avevi parlato di mixare, avete mandato il master in Tennessee, mi pare, o negli Stati Uniti, sono sì, a Nashville. Nashville è patria della country music e non soltanto della country, anche del rock and roll. E del rock and roll, esattamente. Sì. Città importante, fondamentale, sì, sì, sì, per la musica americana. Abbiamo deciso di mandarlo lì tramite sempre il nostro produttore, che comunque ha lavorato in questi studi di Nashville, quindi praticamente l'abbiamo mandato da... con una certa sicurezza, perché comunque lui conosceva le persone, ci ha lavorato insieme, insomma, poi il budget era quello che era e giustamente lui dice: ragazzi, guardate che con il budget che vi chiedono qua per fare un master lì è completamente un'altra cosa, nel senso... Com'è il discorso, questo interscambio, Massimo? Il discorso è che... è interessante, un master... Ma noi lo diciamo, vabbè, per le band come noi, emergenti, che magari sono in procinto di fare un disco, tutta una serie di cose, cioè ormai con internet, con tutta una serie di tecnologie che abbiamo a disposizione, si possono veramente, cioè, fare il giro del mondo tre volte in una notte, cioè, certo. Si possono veramente fare delle cose che anni indietro si sognava di fare. Infatti voi siete stati o no a Nashville? No, noi allora fisicamente non siamo stati, sostanzialmente ci siamo stati... online con Nashville su Google Earth Street View con Google Earth. Ma no, poi sostanzialmente di fatto c'era, perché insomma questo nostro produttore aveva anche molte amicizie qui a Milano, cioè poi quando è stato qua non ha lavorato solo per noi, ha lavorato anche per altri gruppi come Grenwill, che salutiamo, e altre persone. Insomma, il master si poteva fare anche qua in Italia, giustamente a prezzi folli. Cioè, secondo noi folli. Lui dice, cavoli ragazzi, guardate che... Cioè, costa più qua che là? Sì. Cioè, sì. Pazzesco. Cioè, almeno queste sono state le informazioni che ci sono state riportate. Giustamente, poi, vabbè, che possa essere stato fatto comunque legato a, tra virgolette, conoscenze o collaboratori suoi, tra una serie di cose, però c'era nettamente, insomma... una differenza abbastanza importante. Importante. E alla fine abbiamo optato per questo, anche perché lui ci dice, ragazzi, guardate che lì lo fanno con, insomma, un mixer con cui praticamente negli anni 70 registravano i migliori dischi in assoluto. C'è ancora valvole, c'è una cosa... Analogico. Analogico, sì, sì, è stato masterizzato completamente in analogico. Con suono caldo. Suono... Sì, sì, una bancata... Mi fa, se volete, sostanzialmente lui dice, volete un suono freddo, volete un suono secco. Perfetto, volete un suono, esatto. Allora, io vi consiglio, se volete un suono caldo, abbiamo impostato tutto il mix, tutte le registrazioni, per dare poi un'impronta calda, e quindi non troppo secca, non troppo tagliente, che va a cascare, insomma, in un genere che non ci riguarda, come potrebbe essere il metal o altri generi. Allora lui fa, io vi consiglio di fare un master magari, cioè, lì, perché lì è la patria, volete qualcosa di caldo, lì è la patria per avere qualcosa di caldo. E infatti abbiamo andato via il mix, già contenti del mix, è tornato indietro che non credevamo, cioè, a noi stessi, perché comunque è tornato dietro un prodotto che puoi fare, secondo me, tranquillamente anche qua in Italia, perché le attrezzature ci sono, ma a costi folli. Cioè, a costi folli. Pensate proibitivi, che, praticamente. Sì, pensate che questa persona che ci ha fatto il master è una persona che ha uno studietto, cioè a Nashville. Non ha niente di che. Cioè, non è uno studio dove è andato a registrare Crosby, Nash & Young. Cioè, sì. Però quei mixer lì girano come il pane. Cioè, se non hai quello, se non registri a nastro, se non registri... Cioè, lì non sei nessuno. Lì è ancora il culto delle cose vintage che funzionano bene, funzionano ancora bene, nonostante tutta la tecnologia di adesso. Cioè, lì se non registri a nastro, se non hai un analogico per fare il master, no, ma cioè è un disco da... Ma ci stavo pensando adesso, scusa, a nastro, con i nastri. Con ancora. I nastri, registrano con i nastri. Non mi fanno neanche più, mi sa, i nastri. No, beh, mi dice che le però. Grandi produzioni, ma guaia, cioè ancora nastro. Cioè vuoi fare qualcosa di bello, un blues, vuoi un country, ma guaia, ma chi va a registrare in digitale, no, sì, assolutamente sì, sì, sì. No, si fanno ancora quei nastri, ma è difficilissimo registrare nastri. Sì, sì, se sbagli è costosissimo, ma sì. A detta di questo nostro produttore, insomma, un po' più tecnico di noi, dice, qualsiasi cosa voi volete, ma la qualità del nastro è ancora imbattibile. Ha un costo è un costo esagerato adesso, l'aveva allora ancora di più, ma è imbattibile. Cioè, dai microfoni vintage anni 70 ai mixer, a tutto quello che c'era, non niente batte ancora quella attrezzatura lì. A tal proposito, una band che è venuta ieri sera in Nagalia, si chiamano, mi dicevano che hanno registrato con un tecnico del suono, un fonico, che ha utilizzato in un cottage nella campagna microfoni Neumann tedeschi del 1970. Infatti sono ancora i migliori Neumann. Incredibile. Infatti questo disco, il nostro disco è stato registrato con due microfoni, un Neumann, vedi, un Neumann vintage e un Sennheiser identico a questo, un MD bianco. 421 bianco vintage, comprato su eBay. Eppure noi dicevamo, cavoli, ma Lino, ma sei sicuro? Cioè, nel senso, nuovo costa così, questo usato costa ancora di più. No, ma fidati, perché questo è vintage, è degli anni 70, voi non vi rendete conto di come suona questa cosa. E aveva ragione. Aveva ragione. Bene, sono quasi le 23, alle 23 ci sono una cosina che poi Sergio vi spiegherà chiaramente. Sentiamo un altro pezzo da disco per adesso, così vi riposate un poco. Che cosa, Sergio? Siamo già alla terza traccia della numero 4, che è Honey. Ok. E la sentiamo e dopo la discutiamo. Certo. Certo. Rockwave. Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Allora, abbiamo sentito la traccia numero, abbiamo detto la 4 del disco dei Never Trust, che sono ospiti con noi questa sera, e adesso è tempo del nostro giochino. Sì, prima di dire una cosa solamente su questa traccia, vogliamo dire... Gianni ci ha dato dentro, soprattutto nella parte finale, gli avete consentito di darci dentro. Eh beh sì, ci sta, come diamo spazio al bassista, ah, Flavio, anche sì, alla batteria. La batteria è un pezzo proprio al finale, da jam session, proprio ha finito alla grande, si è scatenato. Ok, adesso puoi partire con il giochino. Ne facciamo 5? Ne facciamo 5, dai sì. Allora, immaginate di essere, di dover partire per un'isola deserta e star lì un bel po' di tempo. Insomma, quali sarebbero i vostri 5 dischi da portare in questa isola? Vecchi, nuovi, no compilation? No control, assolutamente. No control, non compilation. Dischi belli. Cercate di non copiare l'uno con l'altro. E che quindi altra? 5 in tutti e tre? No. 5 a testa? Yes. 5 a testa. Allora parte io, se no me lo rubano. No, perché no, non vale. Potere alle donne. Ma io sono in ordine, sono il più recente, quindi è più sto spazio. Ma se me li bruci tutti, io cosa dico? No, il primo non lo so se me lo beccano. Io senza dubbio direi... Se ti infastidisce, io le chiudo il microfono. Mi sposto sul suo. Femmine. No, io direi... No, non vale, c'è una congiura. Assolutamente The Wall, che ci sono legato... Vabbè, sia legami di famiglia che me la passato, diciamo, a forza mio papà, che se ci sta sentendo saluto, se no come se l'avessi fatto. The Wall assolutamente. Hai preso il biglietto? Assolutamente. Di caso. Tra l'altro è qua, sì. Volevo prenderli per tutti e due, poi ho detto, Padova è più vicino, assolutamente. Ok. Poi The Wall? Ha subito tutti e cinque. Allora mi sono fregato, io pensavo... E se vuoi, non possiamo fare... No, possiamo fare anche sì, così. Dai, sì, così sì, ci vuoi pensare. No, dai, così non ve li rubo tutti. Ah, ok. In verità ci devo pensare. Io ti dico 10 dei Pearl Jam. Bene, ottima, così, ottima scelta. Uno dei dischi più belli di Pearl Jam. Qualcuno dice il migliore, anche se poi non è vero, però molto significativo. Sì. Io dico Van Halen 1. Van Halen 1. Ma mi hai fregato! L'abbiamo citato prima. Bene, poi... Quelli ne frega un altro, che è le Zeppelin 4. Ah... Come mai hai scelto, Flavio, le Zeppelin 4 e non le Zeppelin 1, il 2 o il 3? Ma le Zeppelin 4 ci sono legato... Al di là di Stairway to Heaven. Ma per Stairway to Heaven sicuramente. Poi, innanzitutto, tra tanti album che ha fatto, quello top assolutamente. E direi che, vabbè, quando ero piccolino, zone elementari medie, avevo sentito i Led Zeppelin. Dir la verità, avevo sentito... Adesso dal parlare non mi viene in mente. Il singolo probabilmente. Non era neanche in quest'album. Black Dog. Direi Black Dog, vabbè, che suonare col basso ci provo da sempre, viene sempre quello che viene. Più che Black Dog viene Dead Dog. È sempre Dog, va bene. Sempre Dog c'è dentro. E comunque no, le Zeppelin 4 che... Tra l'altro... Eccolo qua. Non ci suoniamo sopra. Che tra l'altro ringrazio anche il mio cane, che di recente me l'ha mangiato per il vinile che io li colleziono. Me l'ha fatto fuori. Che era... Gli piace anche a lui. È Dog. Quindi passo alla Eli la palla. Il secondo l'ho detto. Elisa, tocca a te. Allora, vediamo un po'. Io direi qualcosa dei Clash. Sì. London Calling. Dei Clash. Che bello. Direi di sì, molto bello. London Calling. Caro Massimo, io porterei Regatta de Blanc dei Police. Sì, dei Police. Cioè, ma non me li frega tutti. Stavo pensando quale disco di Police volevo. Come mai i Police sono legati al tuo passato o al tuo presente? Forse io, a parte che li apprezzo tantissimo, perché secondo me sono stati innovativi. Hanno aperto. Hanno fatto il reggae rock. Hanno aperto praticamente un canale a una miriade di band. Sono certo, stati i pionieri. E ancora tutt'oggi sono ancora i pionieri di quel genere. Che da loro sono partiti tutti. Certo. Cioè, la maggior parte di quello che ascoltiamo adesso è gran parte legato a loro. E poi dei ricordi di quando ero piccolino, io associo la musica a dei ricordi, a delle belle emozioni. E ricordo che ero piccolino, mio padre mi portava in giro, mi portava qua in Veneto, e ascoltavamo i Police in macchina, e ho un ricordo bellissimo, e quindi è sempre un'emozione ascoltarli, e me lo porterei su un'isola deserta. Sì. Flavio, tocca a te. Ma da portare sempre su un'isola deserta, mi è venuto in mente adesso che, vabbè, io c'ho anche l'animo metallaro, diciamo. Sono cresciuto con i Megadeth, quindi direi Rust in Peace, che magari tanti lo conoscono, però l'ho bruciato, l'ho ascoltato tante di quelle volte che... Un capolavoro del trash. Ancora un po' di volte lo ascolterei volentieri. Tocca a te, Elisa. Ti ha fregato con i Megadeth? No, me li fregano tutti. Allora, aspetta, fammi pensare. Vabbè, magari qua sicuramente sarò scontata, però... Qualcosa di Nirvana, Nevermind, vabbè, giusto per andare nel super classicone. Direi che me lo porterei, sì. Tiene compagnia. Io ne sparo uno un po' più aggiornato che adoro, Promises to Land dei Darkness. Come mai hai citato i Darkness? Gruppo importante, amato, non moltissimo in Italia, però abbastanza. Ma li ho citati perché secondo me sono una grande band. Vabbè, lui non dico che emula, però comunque ha le caratteristiche di... caratteristiche dai, un po' esagerato. Lui è molto influenzato da Freddie Mercury, sì, chiaramente, la voce. Infatti loro sono stati scoperti da Brian May. Vedi caso, io ho tutti i loro dischi, li ho visti dal vivo 2 o 3 volte. Secondo me sono veramente, veramente bravi. Cioè, non sono la reincarnazione dei Queen, quello? No, quello assolutamente no. Ma per fortuna, cioè, i Queen sono i Queen e basta, appunto. Però loro hanno delle influenze veramente, secondo me, che prendono un po' dai Queen, dai Thin Lady. Sì. Da quelle band, insomma, che hanno fatto la storia del rock inglese, e secondo me l'hanno riproposta nel 2000, negli anni, insomma, nel terzo millennio, insomma, sì, in maniera eccellente, con delle belle idee, e hanno fatto capire che, insomma, si può fare ancora del buon sano rock and roll, e le idee ci sono ancora, di buono sano rock and roll, sì, e quindi meritano. Meritano. Tocca a te, Flavio. Penso il quarto. Sì. Ma il quarto, non per importanza, che va bene, ce l'abbiamo in 4 sto disco, di cui ne ho 2 copie, quindi siamo in 2 ad averlo, perché ce l'ho sia in vinile che in CD, che lo adoro. Ce l'avranno in pochi, adesso mi staccheranno il microfono, però mi piace tantissimo l'ultimo dei Guns, che è Chinese Democracy. Come dico, ce l'avremo in 3 o 4. Non è stato molto amato. Non è stato amato. Soprattutto non è stato molto amato, visto che il dispendio enorme di dollari che sono stati buttati. Io l'ho seguito per... ci ha messo 15 anni a uscire, io per 15 anni ero lì, domani esce. E quando è uscito, vabbè, volere volare, una mezza delusione o no? No, io l'ho amato tantissimo, ce l'ho in macchina sempre fisso, mai tirato via, uno in macchina, uno in casa, quindi siamo a un livello proprio... E lo svendono, l'ho visto recentemente a prezzi di... No, e l'ho preso subito, anzi me l'ha regalato, ringrazio... Chi te l'ha regalato? La mia amorosa, che le avevo fatto una testa tanta, e allora ha detto, il giorno prima che è uscita è venuta a casa, me l'ha portato, e io... Sei stato soddisfatto. Da lì è ancora in macchina. Bene. Tuttora. Elisa, tocca a te adesso, quarto pezzo anche per te, quarto disco, quarta scelta. Ma quanti ce ne sono? 5? È l'ultimo, penultimo dai. Ah, il penultimo. Quarto, questa è la quarta scelta. Da donna stavo pensando a un insieme, quindi a un mix tra qualcosa che fosse di Cristina D'Avena. No, tra un mix tra Tatangelo. Allora, poi quello che ho scelto, però non mi viene in mente. Vabbè, un album, adesso poi i titoli. Comunque, posso dire 3 nomi in uno stesso. Una stessa scelta, dato che non concediamo. Voglio usare... Cioè, io vorrei dire le donne rock tra Janis Joplin, qualcosa diciamolo di lei, però darei anche credito a una PJ Harvey e a anche Patti Smith, ecco. Diciamo che ci stava la vena femminile, volevo dire qualcosa. Un album di Janis Joplin, dai, di qualcuna di loro, ci sta, me lo porterei. O anche di Patti Smith. O di PJ Harvey. Ecco, ho unito. Tutto insieme. Tocca a te, Massimo. Io mi porterei, vabbè, un classicone, però come si fa a non ascoltarlo? Back in Black degli AC/DC. Bravo. È un disco che non smetterei mai di ascoltare. Cioè. Anche le classifiche non smettono mai. No, di infatti proporlo, penso che sia il secondo disco più venduto, sì, al mondo. Dopo Thriller di Michael Jackson. Sì. È sempre in classifica. È sempre lui e si veste sempre come si vestiva 30 anni fa o 40 anni fa. È sempre con i pantaloncini corti. È sempre lui. Grande Angus, maestro. Maestro, e suona sempre nella stessa maniera e non si muove mai, o si muove poco, sempre quasi fisso. Sempre. E d'altronde è una caratteristica del CDC. Amatissimi anche in Italia, amatissimi. L'ultimo tour ha fatto il pienone, messa, esatto, in tutto il mondo. Sì. È veramente. L'ultimo, Flavio, per questo qua me l'ha fregato, quindi alla fine me l'ha. Il rovescio della medaglia sull'ultimo, devo pensarci prima. E quindi, vabbè, mi ha rubato questo. Ma allora, sto qua adesso non lo metterei in macchina neanche a morire, perché non mi piace. Non ti piace più? Assolutamente no. Però quando ero piccolo e quando era uscito, forse è quello che mi ha fatto diventare musicista. Ripeto, adesso non li ascolto più. Però c'era Americana degli Offspring. Mi aveva fatto scattare già quella scintilla. Ero piccolino, ero elementari, no? Però già mi faceva qualche effetto strano. E allora ho detto È il punk da classifica. Sì. Adesso va bene, adesso li hai superati, sì, gli Offspring. Sì, penso di non ascoltarli più da Americana. Un po' di tempo. Però vabbè, dai, un grazie glielo do anche a loro. Ma Saggio, tu li ascolti ancora gli Offspring? Io comprai il disco di Self Esteem. Ah, perfetto, basta. No, veramente ce l'ho. Ci credo. Avrò ascoltato solamente Self Esteem e un'altra. E il resto non so neanche cosa. 15 anni, 20. Elisa, tocca a te. L'ultimo della serie. L'ultimo disco. Allora, volevo perché ho già detto per Gem, ho già detto Nirvana. Volevo togliermi un po' da quella scena lì. I Ramones. Credo che ci siano, quello famoso si chiama proprio Ramones, credo, no? Ne ha fatti tanti. Sì, diciamo di Anthology, la raccolta. Dobbiamo tenere conto di una cosa: loro sono stati vero degli apripista per tanta gente. 2 minuti e 50, 2 minuti e 04, 2 minuti e 7. Spaccava il punk vero e proprio. Sono stati loro. Sono stati anche i Clash. Ma poi erano punk o no? Erano loro. Erano loro, questa hai detto una cosa giusta, Sergio. Sì. I critici hanno dovuto attaccargli un'etichetta, però erano loro e basta. Esatto. E da quante band si sono ispirati a loro? Una marea. Erano più rock and roll. Erano rock and roll, sì. Molto. Ma un rock and roll da classico, 2 minuti e 4. Sì. I tempi erano punk. Punk, certamente. Tocca a te, Massimo, così concludiamo la lista. Concludo. Lo dico sinceramente, me ne porterei un casino. Lo so. Però vabbè, siccome mi sono avvicinato alla musica col grunge, una band che amo tantissimo, sono gli Stone Temple Pilots, e porterei Thank You, che è una raccolta, o Number 4, che è secondo me un bel album Core, che secondo me merita, perché loro sono secondo me una gran band. Decisamente sì. Bene, abbiamo finito il giro, è stato un giro positivo, fra i Led Zeppelin e Patti Smith, che ci sta. Le Zeppelin e Patti Smith si possono legare, secondo me. Due geni. Uno era Jimmy Page, uno è ancora Jimmy Page. Patti Smith è un genio. L'ho vista recentemente su Rai 3, hanno fatto una sua intervista. Visivamente non è granché, chiaramente, no. Però dà un certo peso, è una scelta, dà un certo. È una musa, c'è poco da fare. Secondo me la trovo meravigliosa, bravissima, strepitosa. Da quel giorno in cui ha deciso di fare un pezzo assieme al boss, l'ha scatenata. Ah, secondo me Patti Smith influenza il mondo del rock come Madonna influenza il mondo della moda. D'accordo con te. Pensavo del pop, addirittura del pop, della moda. No, della moda, perché la musica a parte Madonna, scendiamo Madonna dalla musica. Però era intelligente Michael Madonna, Jackson col pop. Sì, no, ma quello molto intelligente Madonna. Quello niente da dire, ma secondo me i pezzi degli anni 80 di Madonna, secondo me, sono delle bombe, cioè veramente. Poi penso che non se li producesse neanche lei. No, aveva un grande staff dietro. Però insomma, lei ha saputo sfruttare il suo personaggio e cavalcare l'onda giusta. È stata, sì, adesso ha trovato una che dà un po' da filo da torcere. Gaga? Lady Gaga, sì. Beh, sì. Leggermente. È la nuova Madonna. Secondo me non è rivoluzionaria come Madonna. Però. Anche se dal vivo dicono che sia molto brava Lady Gaga. Assolutamente dal vivo. Molto spettacolare. Mi è stato detto da chi l'ha vista. È una grande pianista, in ogni caso Lady Gaga. Madonna non è una grande pianista. Stefanina Germanotta. Esatto. Proprio lei. È allucinante il suo nome, però. No, beh, per quello che fa nel suo genere ci sta benissimo. Certamente. Adesso c'è Adele. Ah, che brava. Lei è un talento proprio innato, fuori dal normale. Poi ho saputo che poverina invece ha avuto problemi alle corde vocali. Sì. L'anno scorso, mi pare. Ha cancellato un sacco di date del tour. Prima della colonna di 007, esatto. Mi sembra. Skyfall, sì. Bellissima. Anche riprendersi è un po' dura. Sì. Però... Dopo 89 settimane in classifica in Italia, gli altri del resto del mondo, quasi 20 milioni di copie con 21. Sì, ha 21 anni infatti, 22, quasi 20. Guarda cosa ha venduto. Sì, è della classe 88 credo. 89. Sì, 21 anni. Mamma mia. Posso dire una cosa? Dimmi, vai. No, volevo dire che non abbiamo detto i Queen, ma secondo me li avremmo detti perché in realtà tramite Darkness sono stati citati. Sì. Posso dirlo, sì. Che se no l'avremmo detto. Basta. Bene, volevo chiudere la Li avevamo già detti, sì. Ecco, sì. Ce l'abbiamo uniti. Basta. Ok, 23:18, adesso... Cosa volete, suonare o sentire un pezzo da disco? Come volete. Suoniamo, dai. Ok. Detta così proprio. Sì, suoniamo, vabbè. Abbiamo o Morning Light o Rebound. Title track. Ok. Facciamo la title track del disco. Morning Light. Esatto. Tell me love exists. You can do me. Blu Radio Veneto. E con noi in studio questa sera ci sono i Never Trust, Maurizio. Sì, anche questo era un pezzo che non era prettamente così velutato, assolutamente, no. Leggermente più sostanzioso, e l'avete trasformato. Ecco, l'importanza della band di stasera è che quasi tutti i pezzi loro non sono acustici, sono lentamente elettrici, però è stato uno sforzo notevole e positivo, secondo me, trasformarli in acustico. Voi mi avete detto che avete anche un discorso parallelo in acustico, però non è tanto semplice da una che è stata una band che è stata, spero che continui assolutamente a fare concerti in giro, trasformarsi in acustico. Ci vuole una forza non da poco, prima della cantante, della vocalista, e poi degli altri musicisti che la seguono. Certo, sì, ma appunto torniamo sempre... Sì, ma è un discorso che è giusto riprendere, rifare, certo, allargare, perché non, certo, non è così, si fa e basta. No, si fa con una certa maniera, esatto, con un certo metodo. Infatti appunto anche il fatto di portarlo live è proprio perché oltre ad essere una sfida, ti aiuta sempre anche a crescere, a essere sempre più attento a ogni singola nota, ogni singolo respiro, ogni cosa. Poi ovvio, quando c'ho la chitarrona dietro è ovvio che mi piaci di più, però è un'altra dimensione. Ecco, secondo me se riesci a gestirti bene tutte e due, sai bene, sai... Cioè, hai chiaro... La scelta di fare un acustico ed elettrico dipende dal pubblico, dai momenti, dai locali. E purtroppo sì, oggi come oggi, dai locali, nel senso, mi chiamassero 10 volte l'anno l'honky tonky o comunque posti dove si suona veramente bene, andrei sempre solo in elettrico, quello sì, ma perché la nostra radice è quella. Poi ovvio, ci fosse un'apertura solamente acustica a una band che ne vale, ci vado anche lì. Purtroppo adesso dobbiamo farlo anche oltre al fatto di appunto migliorarci eccetera, anche perché tanti locali o non riescono a pagarti in base anche allo sbattimento, a tutte le cose, quindi preferisci vai con due robine acustiche e quindi porti lo stesso a casa lo show, ti fai conoscere, mandi la, cioè trasmetti, fai la tua musica, però non puoi arrivare lì in batteria e magari non c'hanno l'impianto, cioè condizioni allucinanti ogni tanto. Quindi vabbè, lo fai anche perché devi. Questo io lo sbaglio. Sì, no, no, hai ragione, ma secondo me poi di base, di fondamento siamo partiti a fare questa cosa perché comunque secondo noi l'acustico ha un'atmosfera che è particolare. Quando andavamo a vedere le band acustiche che riproponevano appunto l'acustico dei propri pezzi, però in verità erano band elettriche, secondo noi c'era un'atmosfera veramente molto, molto particolare, e quindi abbiamo deciso, in parte un po' dettata da esigenze dei locali, perché comunque i locali attrezzati per farti suonare bene sono pochi, per farti suonare male sono tantissimi, le pretese sono allucinanti, del tipo le classiche che sono quelle, portami 50 persone, sì, no, oppure ti dicono ciao, noi offriamo la possibilità di dare spazio alle band emergenti, ok, va bene, veniamo a suonare, niente, comunque vabbè, la prima serata di prova, poi dopo vediamo. Scusa, cioè, nel senso, allora non lo facciamo per soldi, però almeno dico un minimo di rimborso spese, magari facciamo anche 100 km, non mi sembra il caso. Allora noi gli diciamo sempre, mettiamola così, tu hai un ristorante, noi veniamo lì a mangiare, stasera mangiamo gratis e proviamo come cucini, poi decidiamo se torniamo a pagarti. Bisognerebbe no? fare così. Sì, sì, e siccome, la faccia tosta. E siccome la maggior parte della gente vuole fare live music, ma non sa cos'è la musica, non sa cosa vuol dire fare live music, non sa cosa vuol dire, cosa c'è dietro, pensano solo all'introito e dicono, cioè, apro un locale, faccio suonare dal vivo, lo riempio, faccio i soldi e poi chi se ne frega. Sì, con le tribute band magari. Sì, con le tribute band, perché ormai è intasato di tribute band. Ormai vuoi andare a vedere Kiss, vai a vedere Kiss a 10 km da casa. Ma neanche, sì, cioè, sì, allora un po' dettati da queste cose, un po' affascinati anche comunque. C'è un mio collega, cioè, che è passato, spero che non stia ascoltando, in teoria no, è passato da una tribute band di Vasco ad una di Laura Pausini e adesso Elisa. Ma cosa suona? la chitarra, penso. Ah, sì. Mamma. No, poi io capisco, penso, che comunque in queste band ci sono dei musicisti veramente eccezionali, perché alla fine magari sì, è gente, sì, che ha studiato una vita, sì, e in Italia non trova magari non trova lavoro, non, certo, trova da insegnare, non trova spazi, non trova, magari ha fatto dischi, ha collaborazioni, non è mai riuscito a fare niente, e giustamente io non li critico, ma, cioè, rispetto anche, perché comunque devono portare a casa la pagnotta, certo, anche loro, hanno studiato una vita, non possono andare a fare il giardiniere. Chiaro, un esempio di questo genere, anni fa, 2 o 3 anni fa, sì, esattamente, è venuto qua un ragazzo, un batterista di una band, e lui mi diceva, era diplomato batteria in provincia di Rovigo, un conservatorio molto importante, famoso, e per vivere doveva fare il batterista delle band di liscio. E i batteristi delle band di liscio, come voi sapete, fanno facchinaggio? No, si muovono solamente, non toccano neppure. Ma penso che non solo i batteristi. Esatto, tutti quanti. Sì. Playback a manetta. Playback a manetta, si muovono. A parte in studio, sì. Gente che aveva suonato 10 anni al conservatorio, uno dei conservatori più importanti d'Italia di batteria, eppure per vivere doveva far così. Ma quindi ci, cioè, andava lì e non suonava neanche? Sì, no, sì. Ma tantissime. Anche un caro amico mio l'ha fatto. Tantissime. Infatti, liscio, sì. Il liscio è proprio faceva così. Faceva finta. Infatti, in Italia il detto proprio che abbiamo i migliori ricercatori e i migliori musicisti è vero, perché scappano tutti. Qualsiasi disco che prendete in mano c'è sempre dentro un italo-americano, un italo, un italiano, cioè qualsiasi. Cioè, ricercatore idem, fra un po' fuggiremo tutti quanti, perché purtroppo è così, non c'è niente da fare. Oppure bisogna vedere anche dal posto, dalla città, se c'è qualche locale interessante che continua a fare un discorso di musica dal vivo, ma ce ne sono pochi, molto pochi, molto e pochi. Sono intasati, tutti vorrebbero suonare là, perché si fa musica dal vivo, si fa musica inedita. Perché è vero, cioè, può essere interessante sentire una volta la tribute band dei Led Zeppelin, ma quando li senti 10 o 15 volte, che fanno per 10, 15, 30, 40 volte Stairway to Heaven o to Heaven, dipende dai punti di vista della pronuncia, dà un certo peso. Dispiace, perché sono gente brava, interessante, che sicuramente avranno scritto delle cose loro, mm-hmm, però come si è detto, per mangiare, per prendere la pagnotta, devo fare anche questo. Sì. È una situazione difficile. Anche all'estero mi dicevano che succede una cosa di questo genere. Sì, sta incominciando a succedere adesso. Esattamente. Sta cominciando a succedere adesso, perché basta andare solo qua in Germania, hanno una cultura completamente differente della musica da noi. Loro apprezzano, vabbè, ovviamente di più i generi un po' più duri, il heavy, il rock. Sì, certo. Però è completamente diverso anche il trattamento per i musicisti che propongono pezzi propri. Cioè, è una cultura differente, insomma. Esattamente. Loro lo celebrano un po' più di noi il rock and roll. Noi qua siamo ancora legati, ancora, con tutto rispetto, alla canzone d'amore e le smielate classiche ripetute, straripetute, girate sotto sopra. I moda. Sì, no, siamo le vibrazioni. Siamo praticamente schiavizzati da Amici, X Factor, che poi tira fuori anche dei talenti, però è proprio un brutto segno, perché questo, la televisione ha rovinato la musica. È un brutto segno, perché è proprio segno di crisi, perché ormai le etichette non ce la fanno più e puntano a tirare fuori questi personaggi, a fare il budget dell'anno, sfruttando e spolpando questi personaggi, che poi oltretutto secondo me tanti hanno anche talento, certo, però si è innescato tutto un meccanismo veramente e poi li buttano via. Brutale, sì, l'anno dopo non cambiano immediatamente, brutale. Sì, perché intanto sono lì, la promozione gliel'ha fatto il fatto che era in TV, quindi, certo, comunque cosa conta poi? Vai live, fai paganti, perché sembra che solo perché era in TV sei più bravo degli altri, che invece secondo me ci sono un sacco di band che si fanno... Ah, le vediamo, sì sì sì. Cioè, tanto impegno, capito, e cavoli, esatto, però devi stare lì a fare un disco fatto bene, le cose, anni e anni di gavetta, magari uno, ok, talento, però magari perché sai cantare bene, che ne so, non seguo più sti talenti. Sì, no, ma basta... Però le canzoni che cantano, ok, le fai bene, però da lì essere musicista, cioè la stessa Emma, io non voglio dire niente contro nessuno. Emma li scrive tutti, Keiko, i pezzi suoi. A parte che non scrivi pezzi, non sai suonare uno strumento, vai lì ai concerti, io solo per, come si dice, curiosità, ma neanche tanto tempo fa sono andato su YouTube e ho guardato il live, è tristissimo, perché ha davanti un sacco di gente, ok? Ah beh, sicuramente. Però fa la rocchettara, ma che dov'è? Cioè, se fosse stata qua, secondo me non vi sapeva citare 5 dischi decenti, secondo me. Però ho capito, la gente che si crede le Zeppelin davvero, oh, Solo che qua glielo fanno fare, perché sembra sì, che... Sì, no, ma basta, basta... L'esempio è palese, non so se vi ricordate Giusy Ferreri. Sì. Mm-hmm. Che fine ha fatto? È sparita. Qualche anno. Secondo, che... me, secondo me si è iscritta al collocamento. A qualche agenzia interinale, sta cercando di tornare a fare la cassiera. Ma sai, con mica tutto rispetto. Mica sempre Tiziano Ferro ti scrivi i pezzi. Ti scrivi i pezzi. No, ma soprattutto, soprattutto, lei è uscita fuori, perché noi viviamo un po' di rimbalzo, no? Da quello che arriva dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, secondo me, no? In quel periodo lì era esplosa Amy Winehouse e in Italia ci voleva la controfigura. Ok, Giusy Ferreri. Poi dopo è saltata fuori anche... che adesso sta facendo ancora qualche disco, non mi viene in mente il nome. Nina Zilli. Nina Zilli, bravissimo. Bravo. Però se, almeno io ho notato questa cosa, noi viviamo di riflesso, cioè quello che esce da, insomma, dall'America, dall'Inghilterra, che poi è tanto di rispetto, cavoli, hanno fatto la storia sul genere rock, sulla musica, insomma, hanno sempre un po' dominato. La Ferreri ha cantato nell'ultimo in siciliano, in dialetto siciliano, nell'ultimo disco di Nicola Piovani. E chi è? 26 marzo 2013. Nicola Piovani è un direttore d'orchestra. Ah, ok. Scusa, che ha vinto l'Oscar con La vita è bella. Ah. E ha ripreso un sacco di musicisti che hanno interpretato le sue musiche praticamente. Mm. Questo è. Però sì. Beh, cavoli, per il resto è fermo al 2011. Comunque parte importante, insomma. Beh, però 2011. Però di sua produzione, cioè, di sua l'ultima produzione è del 2011. Era una cover, se non erro, tra l'altro. Sì, sì, beh, chiaramente. Però d'altronde questo è tutto Marco Carta. No, quello lasciamo. Anche quello. L'ho dimenticato tra i dischi preferiti. L'ho visto, l'ho visto domenica. Non so se avete mai visto quel comico che fa un po' arrocchettare, che dice: ho dato le crocchette e Pantera, ho detto di no agli Yes. No, non ho mica visto. Si chiama Rocco... No. Rock and Rollo, rock and roll. Zelig, quelle cose lì. Ho riesumato Sepoltura. ho dato la carta igienica ai Chicago. Incredibile, non lo sapevo. Bene. Sono 23:35 quasi. Non so se abbiamo ancora un pezzo da scaletta. Cosa dici, Sergio? Sì, la traccia numero 9, che è Lucky Star. Adesso la sentiamo e poi ne parliamo ancora. E poi dobbiamo fare, prima di sentirla, dobbiamo salutare il nostro direttore artistico, che è Alberto Prisco, che stasera vi ha voluto qua. Quindi è lui che organizza tutti i live. Lo salutiamo. Ciao, cara Alberto, grazie. Ciao, grazie. Bene. Lucky Star. And it's strong by my Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, 23:38, siamo giunti, Maurizio, ormai a buon punto con i Never Trust. Sarebbe anche il caso di ricordare come trovare, insomma, il loro disco e eventuali concerti. Perché no? Direi. Beh, sì, giustamente. Allora, appunto, come hai detto, per ora il nostro disco si trova sulle nostre show. Quindi basta che ci seguite, posso dire? Siti, certamente. Sul nostro sito, che è nevertrustmusic.com, e la pagina Facebook, che è facebook.com/nevertrustmusic, e lì ci trovate. Poi il disco costa solo 5 euro, quindi già lo dico per chi volesse, che è corto di manica, costa poco, esatto. E poi speriamo, credo che potremo dirlo, no? Adesso a settembre, in realtà, ecco, anticipiamolo, dai, probabilmente faremo anche un remix o aggiungeremo un nuovo pezzo acustico, perché partirà la promozione dell'album in versione deluxe, quindi con questo plus in più che aggiungeremo a settembre. Quindi siamo già in fase di nuovo lavoro, nuove cose, sempre attivi, quindi faremo più concerti, più cose, beh. Insomma, ci si lavora bene. Il prossimo concerto invece è sabato, questo sabato a Villa Santa, una festa di quelle brianzole. Quindi... Cioè, che differenza tra quelle venete e quelle brianzole? Che differenza c'è? No, che lui conosce le venete, anche le, oltre anche le brianzole. Però io non conosco le feste brianzole della Brianza. Non so se Sergio li conosce. Non pensavo parlaste di donne. Ti stavo guardando qui. No, altra cosa, un attimo. Cambiano i prodotti tipici, ma lo spirito è lo stesso. Della polpetta. Bene, bene. Quindi sono nati in questa festa. Suoniamo in questa festa. Poi dopo, suoniamo in un posto carino il 24, quindi la settimana dopo, al Centrale di Erba. E anche lì in elettrico si suonerà bene. Erba poi... è una cittadina. Sì, è provincia fa Como. Dove c'è la sede di Radio Maria. Ah, ostia, non lo so, veramente. È vero, è vero. Siete aggiornati. Quindi fa provincia allora Erba. Sì, sì, sì. Quindi è una città abbastanza grande. Okay. O no? No, Como. Erba non fa provincia. Scusa, non fa provincia. Io sono stato zitto per rispetto. Per rispetto. Vabbè, è una cittadina, Erba. È una cittadina importante. Perfetto. E poi, ce ne avremo altri. Svizzera, vedo. Svizzera, sì. Suoneremo a Bellinzona. A Bellinzona, quindi anche Svizzera? Sì, in acustico lì. Barlassina. Quindi a fare una delle... Barlassina, sono io di Barlassina. Il 19 luglio. Ah, sì, ok. Suoneremo... Davanti ai parenti. No, è questo locale che si chiama Garibaldi. E ogni anno ci suoniamo, perché in realtà al chiuso d'inverno, perché ha proprio la parte estiva e la parte d'inverno, è un buco. E quindi non è che si suona, anzi farà suonare, ma proprio gli scappati di casa. L'estate è bello invece, portiamo l'impianto, le cose, è vero, per chi volesse, per la gente che abita più vicina, il 19 luglio al Garibaldi. Bene, allora, per riepilogare, il disco si può trovare ai vostri concerti oppure sul vostro sito? E no, in realtà acquistabili. Si può dire? Sì, certo. Si può acquistare agli show e basta, show, per basta. Ora lo metteremo da settembre quando porterà la promozione dell'Axe Edition anche su iTunes, queste cose qua. Finora purtroppo non siamo riusciti. Visto che è stato masterizzato, cioè il master è stato dato nel Tennessee, cioè negli Stati Uniti, c'è qualche possibilità, visto che hai l'amico che è ritornato negli Stati Uniti, se c'è qualche possibilità, qualche veicolo per andare, per mandarlo all'estero? Sì, no, il veicolo, i veicoli ci sono. Questione economica. No, beh, per mandarlo lì no, perché sostanzialmente adesso con iTunes e i vari siti di vendita online, sostanzialmente una volta che l'hai messo su sei in tutto il perché mondo. Perché è un sound che potrebbe attecchire all'estero. Sì, infatti, in Germania sicuramente, o in quei paesi là, e anche negli Stati Uniti, perché no? Sì, infatti la nostra idea è proprio quella di comunque poi spedire fisicamente poi il disco a, insomma, un po' di etichette, un po' di... Sì, ce ne sono parecchi, insomma, interessanti. Bisogna spedire un attimo, proprio quello fisico, perché sai, la mail... No, quello fisico, certo. Sì, c'è stato un caso, un caso dei ragazzi di Dolo, in provincia di Venezia. Che tu Mira conosci. E Dolo. Esatto, e hanno spedito il disco a un'etichetta americana, e l'etichetta americana è stata molto contenta, cioè è stata lei che poi li ha contattati e hanno fatto, e sono stati negli Stati Uniti a fare un 5-6 date, grazie all'etichetta americana. Quindi può capitare. Dobbiamo sì, ma infatti speriamo in questa cosa, di fare questa esperienza... negli Stati Uniti o in Germania. In Germania, so, adesso andate a Bellinzona, avete già passato il confine e non si sa mai. Siamo andati anche su un'isola una volta, in Sardegna. In Sardegna. Va bene. Bellissimo. Tutto fa brodo, come si dice. No, certo, poi sei all'estero, ovviamente anche lì, ennesima sfida, cioè certo. Poi per di più, cura dell'inglese, le cose. Ma può capitare. No, le cose. Ma io le cose. Beh, la bio nel vostro sito è scritta prima in inglese e poi in italiano. Quindi vuol dire che magari ci sperate, insomma. Eh sì, certo. Beh, giustamente. Sì. Bene, suoniamo adesso 23:43, un altro pezzo dal vivo e poi faremo un altro pezzo del disco e poi faremo la conclusione totale. Bella. Ok, questo è Rebound. Rebound. Questa era la versione acustica di un pezzo morbido, francamente. Mm-hmm. Vero, è una ballad, da, secondo me, posso dirti, Massimo, all'inizio i primi accordi sembrava una ballad FM americana, poi le cose sono cambiate, l'hai sviluppata e l'hai resa più tua. All'inizio no. Grazie. Avevo questa idea, questa impressione. Pezzo molto bello, fatto molto bene, con certo trasporto da parte di Elisa, che si è un po' tirata indietro e ha lasciato andare le chitarre stavolta. Esatto. E il passo di Flavio. Quindi, bene, sono stato molto soddisfatto. Anche il resto, però questa mi è piaciuta particolarmente. Oh, bene, grazie. Bene, adesso sono 23:48, abbiamo circa una decina di minuti, vero Sergio? Sì, 12. 12 minuti. Io voglio sapere una cosa, sì, avete avuto difficoltà a trovare tutti i pezzi da incidere o avevate altri pezzi messi da una parte che per motivo diverso non sono stati incisi? Quanti pezzi hai nascosti? Ovviamente sì, adesso per incidere... No, questi sono stati incisi nel disco, ma quanti ne hai nascosti? Nascosti? Dietro nel cassetto. Ce ne saranno una ventina. Una ventina, non mica tanti, pensavo di più. No, e ventina... No, in realtà sono il doppio. Ah sì, allora va bene. In realtà sono il doppio, cioè perché io vabbè, di solito almeno una alla settimana lo faccio. Cioè tiro giù almeno una volta alla settimana quando se sono in vena, se ho l'ispirazione giusta, se ho dell'umore giusto. Quindi è stata una schermata questi pezzi che avete scelto. Sì. Quelli che secondo voi hanno... più adatti. Sì, sono quelli che poi abbiamo poi sviluppato. Mm. Però nonostante abbiamo appena fatto un disco, io almeno noi continuiamo a scrivere, non ci siamo fermati per niente. Non siete solo fermati per motivi economici, ne avreste inciso un altro subito. Ah, io sì. Io sì, cioè, anche loro. Sì, anche la bocca. Abbiamo fame. Anche Flavio. Non so, il batterista sarà d'accordo anche lui. Sì, anzi, ciao Gianni. Starà suonando anche adesso. Perfetto. Bene, bene, una cosa molto positiva. Sì, di solito le band emergenti hanno sempre tanti pezzi messi pronti nel cassetto, per motivo economico soprattutto. Praticamente la voglia di incidere è tanta, però ci sono anche le esigenze fondamentali da rispettare. Le esigenze sono i fondi. Certo, e poi fondamentali. Fondamentali, esatto. E poi vabbè. Poi anche dobbiamo presentare il disco nuovo, chiaro. No, certo, certo, sì. Ovviamente adesso diamo spazio a questo, quindi sai, fai il live, quindi ti porta via tempo dal pensare, metterti lì, scrivi, anche se è vero che è la base di uno che suona, cioè continuare a scrivere, non fermarsi mai, cioè food for our thoughts, noi diciamo sempre. Bene, cioè, quindi sempre buttarci lì, c'è lui e di notte ci manda, oh, sto pezzo, mamma mia, una macchina da guerra. Ma è giusto, meglio essere così. Poi ovvio, tra quelli ne tiri fuori due, che anche come dico anch'io, come melodia, come cose ti soddisfano, e poi cura l'inglese, cioè un po' un casino, però bello. Poi quando bello. Lo fai sei soddisfatto. Bene, adesso Sergio, abbiamo deciso, noi della band, praticamente anch'io, abbiamo deciso di mettere un altro pezzo da album, non so che traccia avete deciso, ragazzi. La 7, quella famosa 7. Che dà titolo all'album. Che dà la title track, si dice così, sì. Esatto. La sentiamo subito? Esattamente. Eccola qua. Inside. Rock Wave Live. Siamo alla fine. Siamo ormai alla fine della nostra cavalcata. 23:54 minuti con I Never Trust. Parlando di questo pezzo, non è punk perché non ha l'attitudine punk, però dal punto di vista del minutaccio ci potrebbe anche essere. È vero, vicino. Questo sì, è cortino. Ed è forte, molto violento, ma violento musicalmente parlando, che spacca, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, ben due ore fa circa. Sì, è interessante, per quello la critica l'ha amato in modo viscerale, tutti quanti, bello, dovevate lanciarlo ancora di più. Beh, lo hanno lanciato spesso e volentieri quando suonate, questo è un pezzo trainante. Dove è messo nella scaletta del concerto live questo pezzo qua? A metà, sai, a metà. Come abbiamo deciso di metterlo nel disco. Sì, a metà, sì, perché dovete risvegliare, se nel momento si sono leggermente addormentati, fermati, dovete dare un colpo di forza alla gente che vi sta ascoltando sul palco. Guarda, la scaletta più o meno è... cioè la riproduciamo come anche sono le tracce nel disco, non proprio uguali, però sai, parti violento, poi... Sì, diciamo che... siamo lì, sulla stessa linea d'onda. Bene. Tra disco e live. Sì. Io spero che ci sarà un proseguo, ci saranno altre cose da fare, altre cose da sentire. Quindi un augurio di ritornare qua per altri progetti. Cosa dite? Speriamo. Io sicuramente, perché io vi vedo tosti, vi vedo vogliosi di suonare continuamente, di farvi sentire. Dopo 150 e più concerti, adesso abbiamo bissato la quota di 150, andremo più avanti, non so quanto arriverete, è positivo. Con uno zero in più, speriamo. Con uno zero in più. Suonare sempre. Suonare sempre, quello è la cosa più importante. E suonando ci si fa conoscere al 100%. Sì. In qualsiasi locale, anche i buchi, come tu hai detto prima, anche quelli servono. No, certo, infatti... oltre i bei locali che abbiamo citato, che esatto, sei già citato. No, il discorso era proprio prettamente, cioè ormai sì, adesso... Sì, ho capito. È anche, hai comunque un disco di questo tipo, la topaia, tra virgolette, ti fa, cioè magari che non c'è, non sai che backline c'è. Se c'è un fonico, ma forse lontanamente, ti fanno fare il check orario improponibile, non perché non ci va, anzi, è che poi sfiguri, tra virgolette, no? Cioè, nel senso, tante volte nei posti anche topaia, ma se c'è il fonico ti salva e va bene. Proprio quella a cui ormai, secondo me, bisogna anche dire di no, sono quei posti lì, ma perché non hanno proprio la logica del musicista. Molto improvvisato, improvvisazione. Sì, che va proprio al di là di ogni cosa, che poi per carità noi ci metteremo anche lì davvero in metro, cioè pur di suonare, capito, va bene, però fino a un certo limite, perché lì secondo me viene meno rispetto per chi suona, secondo ecco, me. Quello è importante. Sì. No, ma giustamente anche se avete raggiunto e avete raggiunto un certo livello, dicevi tu, sfigurare... Non è per tirarsela, però non si può, cioè. Cioè, dopo, cavoli, non rende, ma anche tu sai che comunque ho dovuto suonare in delle condizioni che non andavano bene. Ma vallo a spiegare tu al pubblico. Magari pensano che suoni così sempre, non è il caso. Poi ti bruci. Sì, realmente poi dopo puoi dare il massimo, ma se... Ah, ma quelli li ho già visti? No. Esatto. No. L'ho visto in un posto, si sentiva male, non sono capace. Sì. E purtroppo ce ne sono di posti in cui non si sente bene, però... Sì. Oh, vabbè, che devi fare? Certamente. Grazie Never Trust, allora. Grazie a voi. Grazie a voi, salutando. Siete fantastici. Starete qua fino a mattina. No, davvero grazie mille. Siamo stati stracontenti di venire qua, poi che siamo usciti dalla Lombardia, di trovare persone come voi che ancora hanno una radio bellissima, trattati benissimo. Grazie. Grazie a Sergio Bortolami. Grazie regia. A te Maurizio. Ci vediamo domani sera. Domani con Bobby Soul. Si chiama Bobby Soul and the Blind. Esattamente, un gruppo di blues, chiaramente. Bobby Soul e blues. Con Agostino che guiderà la trasmissione. Io ci sarò. Io vado come... matto per i nomi, per i gruppi che hanno nomi del genere. Ecco, sì, che giocano su. Bellissimo. Giocherà, a modo di dire, suonerà blues. Vabbè, bello il blues. Sì. Bene, io ringrazio la band, è stata positiva in 100%. E con cosa ci salutate stasera? Stanotte ormai. Vi salutiamo, dato che ormai vi abbiamo fatto sentire in acustico elettrico tutti i pezzi dell'album, con questa cover di Janis Joplin che abbiamo grande detto cover. Un'umile cover. Quindi vi salutiamo con Peace of My Heart. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie ancora a voi. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie. know I did. And it's time I tell myself that I think I've had enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be dead. I say come on, come on, come on, come on. And take it, take another little piece of my heart. Oh baby, have another little piece of my heart. Oh darling, yeah. And break it, break another little piece of my heart. Oh baby, oh, you know you got it. If it makes you you know you're right. Never, never, never, never, never hear me when I cry at night. Be rocker all the time. Anytime I tell myself that I can't stand the pain. When you hold me in your arms, I'll sing it once again. I say, come on, come on, come on. Rock Wave, l'onda del rock.